storie italiane. La saggia signorina. Molto tempo fa, in un regno lontano, viveva un vecchio in una piccola casetta. Era molto povero e sarebbe stato anche molto infelice se non fosse stato per la sua unica figlia, Laila. Era una giovane signorina brillante e allegra ed era saggia quanto era bella. Ogni giorno andavano al mercato a chiedere l'elemosina, ma a malapena riuscivano a racimolare abbastanza per un buon pasto. Alcune notti andavano a dormire molto affamati. In una di queste notti, il vecchio si sedette, guardò tristemente sua figlia mentre canticchiava un piccolo motivo. «Mia cara bambina, mi dispiace molto che tu debba soffrire una vita così dura. Vorrei poterti dare di più.» «Non preoccuparti, papà. Sono abbastanza contenta di quello che mi hai dato. E per quanto riguarda il pasto di stasera, lascia stare. Proverò più duramente domani.» Ma il vecchio era ancora triste. Amava sua figlia moltissimo e voleva darle solo il meglio. Rimase sveglio tutta la notte a chiedersi cosa fare. Fissò la luna che brillava intensamente e sperò che gli avrebbe dato qualche risposta. Il giorno dopo, il vecchio andò al palazzo reale. Nel vederlo, il re fissò il vecchio, dall'alto in basso, chiedendosi cosa avrebbe potuto desiderare. «Vostra Altezza, è un onore essere qui con voi. Sono venuto qui per chiedere se Vostra Maestà mi avrebbe donato qualche moneta d'oro. Solo per oggi, e non le chiederò mai più nulla.» Quest'uomo è venuto vestito con questi stracci sporchi, eppure parla come un nobile. Com'è possibile? Mio caro uomo, chi ti ha insegnato a parlare così bene?» «È mia figlia che mi ha insegnato a parlare. Lei dice che le parole sono una cosa inestimabile per tutti noi. Lei è molto intelligente e io non sarei niente senza di lei.» «Allora lasciami testare quanto sia intelligente. Porta queste uova a tua figlia e chiedile di far sì che nascano pulcini. Se riuscirà, sarai ricompensato. Tuttavia, se non riuscirà a far schiudere le uova, sarai punito.» Il vecchio era scoraggiato. Tornò a casa sua tristemente e disse tutto a sua figlia. «Dolcezza, cosa dovremmo fare? Questo è il cesto di uova che il re ci ha donato.» «Perché? Queste uova sono bollite. Non possono nascere pulcini.» «Che cosa? Allora saremo sicuramente puniti.» «Non preoccuparti, papà. Vai a riposare per ora e troverò sicuramente una risposta.» Il vecchio andò a riposare, lasciando Leila a riflettere sulle uova. La sera, Leila andò a parlare con suo padre, che era molto preoccupato. «Papà, ascolta quello che ho da dire. Porta questi fagioli bolliti con te e seminali nel campo. Quando il re passerà, grida forte: "Oh, fa che i fagioli bolliti crescano e che ci sia un buon raccolto!" E quando lui te lo chiede, digli che è possibile come è possibile far nascere i polli dalle uova sode.» Il vecchio fece come gli era stato consigliato e mentre iniziava ad arare i campi, il re passò sul suo cavallo. Quando il vecchio lo vide, gridò forte: «Oh, fai che i fagioli bolliti crescano e che ci sia un buon raccolto!» Il re fu molto sorpreso di sentire questo, fermò il suo cavallo e chiamò il vecchio. «Dimmi, com'è possibile avere un raccolto di fagioli bolliti? È impossibile!» «Oh, ma è possibile, Vostra Maestà! Possibile? Com'è possibile la schiusa dalle uova sode?» Il re fu piuttosto preso alla sprovvista dall'udire la sua risposta. Immaginò che fossero parole della figlia del vecchio. «Ottimo! Prendi questo lino e trasformalo in funi e vele. È tutto ciò che è necessario a bordo di una nave. Se non puoi farlo, sarai punito.» Il pover'uomo tornò a casa ancora più triste stavolta. Di nuovo disse tutto a sua figlia. Non preoccuparti, caro padre. Tutto andrà bene. È tardi. Dormiamo e domani avremo la nostra risposta.» Il giorno dopo, Leila prese un piccolo pezzo di legno e lo diede a suo padre. «Porta questa al re e digli che se riesce a farlo diventare una ruota che gira, farò qualunque cosa voglia da me. Così il vecchio andò dal re e gli diede il messaggio di Laila. Tua figlia è davvero molto intelligente, ma non mi sono ancora arreso. Rendi questo calice e dille che con esso dovrà svuotare tutto il mare in modo che sia asciutto come un campo. Fallo o non vivrai abbastanza per vedere il domani. Così il vecchio tornò a casa pieno di paura, portando con sé la coppa con cura. Era in lacrime mentre parlava con Laila. Laila, il re ti ha dato un ultimo compito molto difficile. Ha detto che con questa unica coppa dovrai svuotare tutto il mare. Che bella coppa! Ottimo! Avrò la risposta del re per lui entro la fine della giornata. Non temere, padre. Farò in modo che niente di male ci accada. Quel giorno lei la stessa andò al palazzo del re. Il re rimase sbalordito dalla sua bellezza. Sei venuta qui per ammettere la sconfitta? Niente affatto, tua maestà. Sono venuta a chiederti se saresti così gentile da impedire a tutti i fiumi e i torrenti di entrare nel mare. Solo allora potrò svuotare il mare. Il re fu stupito di quanto fosse intelligente questa fanciulla. Hai reagito bene a tutti i miei compiti, ma lascia che ti faccia delle domande per vedere quanto bene risponderai ad esse. Dimmi, qual è la cosa più lontana che una persona possa sentire? Vostra Altezza, la cosa più lontana che una persona possa sentire è il suono del tuono e anche una bugia. Hai ragione. Allora, dimmi, cosa vale la mia barba? La tua barba, mio buon re, vale 3 giorni di pioggia nella stagione estiva. Le tue risposte mi hanno reso molto felice. Forse sei la più saggia fanciulla in tutta la mia terra. Manterrò la mia promessa e ricompenserò tuo padre con tutte le monete d'oro che desidera. Oh, grazie, mio re. Sei troppo gentile. Ma vorrei che tu diventassi la mia regina. Vorresti sposarmi e rimanere nel palazzo con me? Laila non rispose subito e pensò intensamente a ciò che le aveva detto il re. Vostra Altezza, sarei davvero onorata di sposarvi, ma lo farò solo se mi prometterai una cosa. Certamente. E cosa sarebbe? Devi promettermi che se mai ti arrabbierai con me e mi dirai di andarmene via, avrò il permesso di prendere l'unica cosa che amo dal palazzo. È tutto ciò che desideri? Beh, certo, sono d'accordo. Il re e Laila si sposarono il giorno successivo con una grandissima cerimonia. Si amarono teneramente e vissero insieme una vita felice. Ma con la vecchiaia il re divenne molto scontroso. Litigava con tutti quelli che erano al suo servizio. Un giorno ebbe una grande lite con la regina. Pensi di essere troppo intelligente anche per me. Sono stanco di te. Esci da questo palazzo e torna da dove vieni. Come desideri, mio re. Ma non vorresti bere con me per l'ultima volta? Dopo andrò via da qui e non tornerò mai più. Ma Laila mise una pozione sonnifera nella bevanda del re e mentre la beveva cadde in un sonno profondo. Prese il re con sé, tornò alla vecchia capanna logora. Quando si svegliò, fu scioccato di non trovarsi nel palazzo. Vide Laila seduta accanto a lui, era furioso. Dove mi hai portato, donna insolente? Sarai punita per aver rapito sua maestà il re. Per favore, non essere arrabbiato con me. Ti ricordi la promessa che hai fatto? Che se mi avessi mai mandata via, mi sarebbe stato permesso di portare con me l'unica cosa che amavo di più dal palazzo. E dal momento che ti amo più di qualsiasi cosa, ti ho portato via con me. Il re era dispiaciuto per ciò che aveva fatto a Laila. Ora sapeva quanto lo amava. Perdonami, mia cara. Sono davvero un re fortunato ad aver sposato una donna così saggia e bella come te. Il re tornò a palazzo con la sua regina. Insieme vissero una vita lunga e felice e non litigarono mai più. E se anche lo fecero, la regina era sempre lì per sistemare le cose.